Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a voi tutti, cari ascoltatori e gentili ascoltatrici. Eccoci qua per la nostra serata domenicale e così ci teniamo un po' di compagnia. Saluto il mio partner, il signor Antonio Ceccato. Ciao Gesi, e un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Per chi lo desidera, ricordiamo la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. Stasera avremo una vecchia conoscenza che vi faremo, sì, che l'avremo dopo la prima canzone, ed è la signora Franca Turchetto, che penso che tanti di voi si ricordano. La figlia della Serenissima. La figlia della Serenissima. Allora, come ho detto prima, andiamo al primo brano. Stasera è tutto Gino Paoli, canta tutto lui stasera, ed è il primo brano in programma, è intitolato La gatta. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, da una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Bellissima, bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola alla nostra ospite, la signora Franca Turchetto. Bentornata Franca, buonasera. Grazie a voi. Ciao, altri Franca. E cortesemente debitrice per il vostro richiamo. Ascolta, la figlia della Serenissima è di emersa dai fondai di Laguna, dove sì, l'ultimo doge l'aveva buttata. Vedi tu. Pensa che fine che mi ha fatto farmami. Non essendo buona nuova, sono io lo stesso. Ascolta Franca, sì, di cosa ci parlerai dunque, stasera? Dunque, stasera mi parlo del dramma dell'abbandono di Pluteia Venezia della Pia Istituzione della Pietà. Va bene. Ecco, sta Pia Istituzione Veneziana è stata dovuta da prima da Pietà Cristiana di un frate, Piero d'Assisi, e dopo è stata perseguitata e sostenuta da beneficenza così da enti pubblici cittadini come persone private. Oggigiorno il scopo primo per cui è nata questa istituzione non ha quasi più motivo, grazie a Dio e grazie alle modificazioni intervenute nel comportamento di uomini, ma altri scopi, aiutamenti, insomma altri scopi ugualmente per l'aiuto dell'infanzia che ha raggiunto attraverso questa istituzione. È una modalità attraverso cui fare del bene i fanciulli potranno subire varie trasformazioni dovute ai fattori contingenti, ad ogni modo insomma una roba bella, volontà dell'uomo di aiutare e soccorrere il prossimo, è più debole e indifeso, tra certamente vanno considerati i bambini. Ecco questo esempio qua. E adesso faccio una presentazione. Allora, una presentazione storica sull'abbandono dei minori. Mi era che parlo, comincio a parlare del 1300, perciò già in Medioevo ancora, dopo istituzioso è andato avanti per secoli, però mi comincio dal principio. Va bene. Allora, l'abbandono dei neonati l'accompagnai a storia nel mondo praticata fin dall'antichità. Il termine esposto salta fuori dal latin expositio e significa esporre, metter fora. A Sparta, Senofonte istituì una costituzione degli esposti, cioè una commissione dei cittadini che decideva se esporre più o manco i nati deboli, deformi, per chi già era segno di sfavor per i dei. Atene, un altro buon esempio del V e IV secolo, è il costume di abbandonare i neonati desformai, già era di moda. Solone, sia 40, 550 a.C., permetteva l'uccisione, invece antiche norme ebraiche voleva venderli. Costantino 331 d.C. decretava i fiori abbandonati, non poteva essere più reclamati dai genitori o che farli schiavi non già era reato. Giustiniano 534, gli andava ben l'abbandono e l'infanticidio. Altri sistemi per disfarsene dei stiputei più grandetti già era di offrirli a un monastero come dono. I romani li abbandonavano a Piazza del Mercato, vicino a Corona del Latte, perché la legge non obbligava i genitori a tenerli vicini e accesi, e il papà poteva non volere il neonato, farlo esporre, venderlo o farlo adottare. Qui si veniva messi su dei contenitori d'egno o di marmo, coperti di strasse, per tenerli vivi al caldo. E adesso andiamo a nascere a Venezia. Ma guarda che roba che facevano. Sì, non si finiva. Mamma mia. Adesso vedo una roba mia che è inerente, è ancora nell'86. Ansui sensae. Mi agoando co fai gatti, quando disperai i cerca e teta, così piangeva i piccoli esposti, stivai sotto riva, sue crue piere dei fondamenta, buttai nei canai, altre vittime della fatalità, gli veniva di pescai per morire poco dopo. Corpesini d'espoggi, scampoeti de carne moia, dimandava pietà, senza pronunciar parola. Pietà, pietà, pietà, il vagito voeva, che na mancalda sanasse a piaga aperta, posto per i mosconi e sorsi che grosava attorno, ne abbrusera del soleon. Pietà, pietà, voeva e voce che si destuava, col geo de genaro che stroppava respiro in goa. Ma pasta carne in mostra nessuna mare che aveva compassion. Solo fra Pieretto che capiva la miseria, il dolor. E per salvare questa situazione, carità pae case, pae cae, battendo il battaor delle porte, aga dimandà pietà, per dargli dimora e ospizio ai corpesini despoggi, che saltava il turno della morte. Questa è da Franca. Brava Franca. Una roba vecchia. Dunque adesso nascere a Venezia. Bene. L'istituto della pietà, qualche giro incantato a Sobessa, imboccando a riva di Sciavoni, vede l'elegante fattura del 1700 di accesa onomina e incanaandosi dentro la vicina caetta stretta, al trovaria poco più in avanti una grigia lapide che incisa sul muro, che dove esendo e a far venire i penotti sulla pelle. Sta lapide non è altro che una papale del 1548 che la mandà al Papa Benedetto, al Papa Paolo III. E sta lapide scrive: fulmina il Signore Dio, maledizioni e scomuniche contro quelli che mandano o permettono siano mandati i loro figli e figlie, sia legittimi come naturale, in questo ospedale della pietà, avendo modo e facoltà di poterli allevare e essendo obbligati al risarcimento di ogni danno e spese fatte per quelli, ne possono essere assolti se non soddisfano, come chiaramente appare nella bolla di nostro Signor Papa Paolo III, data a D 12 novembre del 1548. Ma perché volevano disfarsi dei figli? Adesso, dopo che c'è un'altra lapide, invece su un altro, sempre rincisa, e c'è scritto: benedetto chi te manda, e mai Dio chi te porta. Addirittura. Ciò, cara mia, ora diremo da. Sta scritta sul muro, appunto, già era rivolta non tanto ai poveri donne sue, più volte abbandonate, violentate e famose vedove bianche, che avendo il marito a lavorare in trasferta e si dava da far restando gravie, per promettersi per ponetarsi di sto sporchesso prima che il marito tornando si incorresse. Ste creature arrivava a pietà in condizioni proprio pietose, e per i tanti fantuini abbandonai, come già dito, nei cantoni delle case, rento e fondamenti, della città che già era proprio circondai da mosconi e altre robe, bestie rare e tutto quello che andava a Dio. E a pietà. E sua origine porta a data 1300, perciò ti vedi che andiamo già nel Medioevo. A fondarla già era sta un francescan, un certo Fra Pietruccio dell'Ordine dei Frati Minori di San Francesco. Trasferito da Assisi a Venezia per motivi, io doveva predicare al Vangelo, e si arrivava per questo motivo. Sto frate, prima di arrivare qua, esce in Franca nella materia letteraria, diventando maestro. E tra i suoi scolari, un certo Bartolo de Sassoferrato, el diventa celebre giurista e gloria dei studi sul diritto, sul diritto romano. Perciò ti vedi quanto chi era studioso? Sì. Dunque, in questi anni, questo Fra Pieretto si trova a Venezia. E qua che capita, smosso da compassione di queste creature, appunto, a dimandare carità. Così sto misero frate, col permesso di magistrati, e si andava a piedi scalzi contro tutte le intemperie, parcae e caete, pestando i battaioli delle porte, implorando appunto sta pietà. I buoni veneziani, che scominciarono a chiamarlo benevolente o Pieretto, della pietà, dal fatto che già era tanto curto di statura, ma de cuor più grande de iu. E qua mi fermo un attimo pensando appunto alla carità, al bene robe che Dio fa adesso il Papa Francesco, che torniamo in Drio, che l'ordine di Francescani è stato proprio un ordine universale su tutto, mi parmi. Perché esatto. Carità, misericordia, insomma, sto frate a tradizione vuol che abbia tolto in affitto di 7 casette dentro una corte, che ancora adesso porta il nome Corte della Pietà, che si incanaca, insomma, si ingrandisce al suo progetto e trovandosi in difficoltà si rivolge al Senato, ottenendo l'aggiunto con grazia approvata dal Maggior Consiglio, cioè ha domandato l'ordine del potere questo per i casi. E io guarda, sta pia istituzione ben consacrata anche dal vescovo De Castello, che è quel sestiere di Venezia, dove che prima che c'era prima cattedrale, prima di San Marco che c'era la cattedrale Castello, dal patriarca De Grado e dal Papa Clemente V, con indulgenze speciali a tutti i benefattori che poteva mettersi in pace con la coscienza. E qua andiamo sempre con la beneficenza. Adesso ascolta, sì, Franca, sì, ci fermiamo per sì. una canzone sì, sì, e sì. poi riprendiamo. Sì, sì, sì. Allora, la seconda canzone in programma è sempre cantata da Gino Paoli, Gli innamorati sono sempre soli. Gli innamorati sono sempre soli, soli sulla strada, soli sulla luna. Ogni panchina è la loro casa, ogni stella in cielo un ricordo d'amore. Gli altri che non sanno, gli altri che non ricordano, gli altri non capiscono, non capiscono, non sorridono. E voi amatevi davanti a tutto il mondo, perché state tranquilli che siete voi, voi gli unici padroni, padroni del mondo. Gli altri che non sanno, gli altri che non ricordano, gli altri non capiscono, non capiscono, non sorridono. E voi amatevi davanti a tutto il mondo, perché state tranquilli che siete voi, voi gli unici padroni, padroni del mondo. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Franca, alla quale lasciamo il compito della sua splendida narrazione. Sì, speriamo. Dunque, a carità e l'assistenza veneziana è sempre stata ottima per l'accoglienza ai poveri amai, pellegrini, orfani, vedove, e è sempre stata frutto della volontà pubblica. Tra il 1297 e il 71 a Venezia esisteva già 68 ospeai. Addirittura. All'epoca, sì, perché c'era anche i pellegrini della Terra Santa, che c'era amai, vecchi, vedove, perciò aveva sempre piccoli ospici, insomma, dopo essere ingrandito. Torniamo a Pieretto. Pieretto, tra il 1346 e 47, è il pensa di dividere i maceti, cioè diventare misti, mastro e fiume e fiori, e a Sandui sotto a protezione di San Francesco d'Assisi. E putei invece femmine e gli dai in consegna a una congregazione sotto il titolo di Santa Maria dell'Umiltà. Col passare di anni, el decide che dopo la sua morte, il suo posto fosse occupato da persone di fiducia, di governare bene le mosine, perché questo venga fatto di buona regola, senza imbrogli e senza mettere mano nel sacco. Perché dopo si comincia anche a ti sa allungare mamma. A sua morte nel 1348 è lascia con dispensa papal, dato che come francescan non poteva essere paron di niente. Il testamento dice: mi, Pietruccio, ordeno che a casa di Apetà sia assada in eredità la suddetta casa. E dopo la sua morte la direzione passa a un suo confrade, un frate, si chiamava Pacino, con tutte le responsabilità che comportava questa gran organizzazione umana che passa sotto sotto protezione ufficiale della Repubblica, anche se donazione veniva sempre stimolata da privati che poteva approfittare, come già detto, delle indulgenze plenarie. Così senza sua presenza la situazione cambia massa, manche mette ora interessi. L'ospedale aveva bisogno del pubblico soccorso, causata bisogni, altre disgrazie incombe sto fattore, carestia, peste e altre miserie, ma per fortuna carità privata non mancava mai. Perciò ti vedi il genere umano sì, delle volte. Sì, sempre. Sì. E qua che se adesso saltiamo un altro tocco e parliamo di a scaffetta. Scaffetta cosa sarebbe? Scaffetta sarebbe stata una scultura marmoria in cielo sul dove chi buttava dentro i putei. Ah, mamma mia. Buttava dentro. Come fa con te Roda? Oh, signore. È Santa Roda, cioè a Venezia prima esisteva la scaffetta. Però la fessura di questa scaffetta già era proprio piena di neonati. Sì. Chi trovava anche abbandonati, che dopo all'interno che c'era il soccorso, che c'era un piccolo ospedale, insomma, che c'era gestito bene. Ah, poi... ma non è che andavano a morire, insomma. No, no, beh, qualche tu moriva, adesso sta attento, ora diremo. Nel Venetian, la vita quotidiana della scaffetta, nel Venetian, e qua ridemo un poco, quando un puteo piange, non so se c'è anche nelle province, anche nelle vostre... Con un puteo piange, e quella pietosa espressione di dolore che il puteo dispiacere, si dice che fa scaffetta. Scappa, sì, perché delle volte sto segno di scaffetta di putei era anche un fintesso. Perché mi ricordo che anche mia mamma, quando come diceva, ah, la fintona fa anche scaffa, ti fa, fatti vuol vedere ragionti. Hai capito? Ecco, questa scaffetta. Perciò i piatti e pignate e altre robe si lavavano nella scaffa di casa. Sto termine scaffetta, scaffa, si cava fuori dal greco col significato di barchetta. De barchetta? Una barchetta, perché a pietà, nel 1700, ora salti che femo, i putei rancurai sempre tramite sta scaffetta, che era una piera quadrangolare, incavata nel muro. Non era piccola, perché poteva rancurare più putei. Ah. Ma il passaggio attraverso il buso c'era per i neonati o putei da pochi mesi. E non c'era i pochi che buttava dentro anche quei più grandi, che veniva fraccai con forza, lisciando di storgere bracci e gambe. O schissargli anche la testa. Mamma mia. I lattanti poteva morire a casa a causa delle complicazioni del parto. L'assistenza non c'era garantia e una volta arrivai si trovava massanai. L'alimentazione non faceva parori, anche il papà non voleva il neonato, ma farlo esporre, vendolo o darlo in adozione. Una volta che venivano a curare queste creature e venivano iscritte nei regolari registri, che si chiamava libri scaffetta. Più tardi, invece, verso il 7-800, gli ha istituito i registri di Roda e gli ha messo un'altra qua Roda, gli metteva dentro, gli girava Rodea e gli portava dentro senza fargli male, insomma. Sì, sì, sì. Cambia ancora il sistema del riconoscimento tramite un segno o roba personale e assada nei vestitini. Nel 1800 ricambia moda. Diventa usanza dell'istituto disegnargli sulla pianta del piede sinistro con un marchio a fuoco. Mamma mia. A firma della pietà, con una P maiuscola. Visto che anche questo non funzionava, col tempo la marca si scanceava, diventando causa di morte. Perciò il governo italico sostituisce questa pratica mettendo al collo un cordoncino con una medaglietta di piombo o stagno, come simbolo della Madonna, con la medaglietta, insomma. Sì, sì, sì. Il simbolo della Madonna. Dopo succedeva anche un'altra roba. E ne, andando avanti col tempo, si arriva appunto a moda de Miam, datata di esposizione a Roda, c'era un tornio che funzionava sempre nel 1800, perché dal 1 luglio del stesso anno entra in funzione l'ufficio accettazione con un orario preciso, diventando l'unico modo per far entrare al Puteo a Pietà. Una volta erano curate creature e ora veniva iscritta nei regolari registri, ibri scaffetta e più tardi i registri di Aroda. Cambia un'altra volta il sistema e qua comincia a segnalarli con dei segnali, cominciava da gli segni, già era praticamente robe personali, assai sui vestitini e fin all'Ottocento è moda diventa e l'istituto torna a segnarli un'altra volta con altre torture, insomma. Oh, mamma mia, un povero piccolo. E ora, in certi abbandoni, la mamma già era costretta e sapeva che non aveva più rivisto il Puteo e lo fidava a protezione della Madonna e dei Santi e rimetteva tra mezzo e fasce un santin, sperando che a buona sorte gli portasse fortuna, insomma. Certi abbandonai portavano cari brevi devozionai, sarebbe stata dei pazienze. Che si incarna Madonna di Carmine a Venezia, che appunto è devozione, c'era ste pazienze, c'era di sacchettini con dentro di tutto, per salvarli, insomma, da essere aiute, dai malani, da. Ma cosa mettevano? Erbe? Sì, mettevano qua, invece si metteva, Petti metteva questi tocchetti al nome, di questo santin secondo per augurargli buona sorte. Certi abbandonai portavano anche dei brevi devozionai o pazienze che a Venezia si chiamava Agnus Dei. Il nome derivava da tocchetti di candea benedia dentro di sacchetti che metteva fregoette che c'era benedia addirittura dal Papa, non so quale, nel primo anno del suo servizio. E in seguito ogni 7 anni nel periodo del giubileo. Okay. I gerasti sacchettini di stoffa, serai con dentro reliquie, santi, cere benedie, terra sacra, preghieri, fatti di cera, di raso, vedi che sì, fantasia, sì, sì. De seda, sì. De velluto nero e di piombo, a forma di cuor, e i più famosi c'era quelli di cappuccini della marca. Non so se era la marca trevigiana. La marca è solo che è trevigiana, mi pare. Appunto. Dunque, e c'era, sì, da. Per de fora, i c'era ricamai o impitturai. È il popolo che dava importanza a queste tradizioni, perché credeva portatori dei poteri. Era roba di magia, chissà sì, cosa, ma il popolo appunto su queste robe qua. Proteggendoli dalle malattie e dalle sventure. D'antica origine, come richiamo, c'era i filateri. Sti filateri c'era dei piccoli pergamene con dentro dei brani della Bibbia. C'era rodoai dentro contenitori di cuoio che gli ebrei tradizionalmente portano ancora adesso i gai a man e al braccio sinistro da fronte durante la preghiera. Tradizione, parliamo sempre vedendo da un secolo a quest'altro, quasi era ancora fa conto medioevo. Sì, la credenza di questi valori di protezione era forte, come già dito, e tante mamme al momento dell'abbandono e ricorreva a questa forma di superstizione, nella convinzione di proteggere l'esposto, queste mamme abbandonava più di un figlio. Di solito donne che si davano anche da far per, sperando insomma, di poter pentirsi e andarsi in doppia. Chissà perché c'era questo abbandono così. E adesso cosa si fa? Infatti la situazione non è che sia molto cambiata. Sì, ma... Anche con mezzi molto diversi rispetto certo, a una volta, appunto. Praticamente, appunto, disperare per l'abbandono, praticamente questi segni ghiacciava perché disperare per l'abbandono e voleva prolungare il tempo e il legame affettivo con i suoi figli, sperando proprio di un giorno di poterli riprendere. e metteva qualcosa appunto a sta in mezzo ai fasci, un contrassegno, un segnale utile che già era utile per l'identificazione. Mm. Anche tante medagliette. Certo, che spesso posto segno e veniva tra già metà che restava a mamma, diremo, a depositaria. E metà restava che restava in deposito a direzione dell'ospizio, no? Sì, sì. Se per caso aveva intenzione di andarsi a Tor, che già era difficile, perché dopo veniva a dotare che aveva altri masciosti fiori dopo, diventando grandetti, poi che aveva anche il suo da fare, doveva andare a domandare carità, doveva andare per campagne a fornire de pan, de roba, andava a carità per botteghe, tanto per fornirsi a questo istituto, perché già era che ci arrivava quasi a una miera. Aspetta Franca, sì. Un attimo, scusami, sì. Ci fermiamo, sì. Per un'altra canzone, sì. È sempre cantata da Gino Paoli, Lei sta con te. Lei sta con te. Lei vuole te. E ti dirà che tu sei stato il primo che ha mai amato. Niente di lei, se ti amerà come tu vuoi, ricorda che lei l'ha imparato da me. Eccoci di nuovo in studio e prima di lasciare la parola alla nostra ospite, come al solito abbiamo il siparietto tradizionale Storie de che altri. E questa volta con il poeta Jorge Luis Borges si parla di amicizia, poema della amistad. No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y compartirlo contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces. Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida, me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parta el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser. Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo. En estos días oré por ti. En estos días me puse a recordar a mis amistades más preciosas. Soy una persona feliz. Tengo más amigos, de lo que imaginaba. Eso es que ellos me dicen, me lo demuestran. Es que lo siento por todos ellos. Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea y la alegría que sienten al verme. Y yo también siento paz y alegría cuando los veo y cuando hablamos, sea en la alegría o sea en la serenidad. En estos días pensé en mis amigos y amigas. Entre ellos apareciste tú. No estabas arriba, ni abajo, ni en medio. No encabezabas ni concluías la lista. No eras el número uno ni el número final. Lo que sé es que te destacabas por alguna cualidad que transmitías y con la cual desde hace tiempo se ennoblece mi vida. Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de tu lista. Basta que me quieras como amigo. Entonces entendí que realmente somos amigos. Hice que lo todo amigo. Oré y le agradecí a Dios por ti. Gracias por ser mi amigo. Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori. Però posso ascoltarli e dividerli con te. Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro. Però quando serve starò vicino a te. Non posso evitarti di precipitare, solamente posso offrirti la mia mano affinché ti sostenga e tu non cada. La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei, però gioisco sinceramente quando ti vedo felice. Non giudico le decisioni che prendi per la vita, mi limito ad appoggiarti, a stimolarti, aiutarti, se me lo concedi. Non posso tracciare limiti dentro i quali devi muoverti, però posso offrirti lo spazio necessario per crescere. Non posso evitare la tua sofferenza quando qualche pena ti tocca il cuore, però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo. Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, solamente posso volerti come sei ed essere tuo amico. In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico. In quel momento sei apparso tu. Non sei né sopra né sotto né in mezzo. Non sei né in testa né alla fine della lista. Non sei né il numero uno né il numero finale e tantomeno ho la pretesa di essere il primo, il secondo o il terzo della tua lista. Basta che mi vuoi come amico. Non sono gran cosa, però sono tutto quello che posso essere. Jorge Luis Borges. Eccoci qua. Ecco. Allora, adesso diciamo, ritorniamo con la, la parola alla nostra ospite. Grazie per questa bella poesia in italiano e in spagnolo, perché mi adoro spagnolo. francese no, non mi va. Bene. Mi piace la sua frase. Scusa, torniamo un attimo in trio. Certo. Visto che sto marchio a fuoco non funzionava, perché col tempo il timbro di Remo si scanseava, e diventava causa di morte. Perché ciò fosse infezione, che c'era assistenza igienica come che adesso, non c'era farmaci, diremo, adatti, non so cosa che ne stava. E il marchio, questa marcatura, è che provocava senza dubbio una grossa ustione profonda che voleva più di un mese perché si serasse. Eppure tante volte l'infezione andava avanti e che povere creature, sapevamo. Dopo il 1700... il marchio diventa un tatuaggio. Ecco, ti vedi che adesso i tosi che si fa il tatuaggio. Sì, sì. Non è una moda. E lo faceva sulla polpa dei bracci, qua sul penaso di asparto, sì, perché faceva l'innesto. E lo faceva appunto con strumento che pungeva a cute, in più parti, facendo penetrare una sostanza colorante che assava il segno della pietà ed è una croce. Ecco, ti vedi, dopo che ha cambiato sistema. Sì. Adesso andiamo ai segni. Praticamente i contrassegni che mettevano, che c'era come che ti dici un santo, una medaglietta, una crosetta, sì. Un fior, una carta da sogo, un ciuffo di cavei, una borsetta di balsamo, cifrette ricamai, ma io anche fantasia. Sì, ma polvere di rosa, massetti di viole. E dopo gli metteva un pochettino di zucchero su una cartina, gli metteva dentro il sacchetto, pensi te... Chissà cosa voleva dire lo zucchero. So, forse già dolcezza. I contrassegni metteva in cartaceo su un foglio, assegna al numero e a data dell'ingresso di sti putei, no? Dopo che c'era anche che gli metteva i schei. E queste monete che mi adesso ve elenco erano di nomi strambi, cioè nomi strambi, gli si usava che a volta... Che c'era moneta poche, che non so che moneta che c'era. Gli metteva ducati, zecchini, scudi. E c'era tutto a riportare nel libro dove che per mantenere che comprava latte questa roba, per mantenere i piccinini, sì, insomma. Sì, sì. Dopo che metteva ancora, sta attente, che metteva e tutte quante veniva a registrare da scrivana all'ingresso di sti putei. Gli metteva mesa d'argento, mezzo di rame, ongari, zecchini, una romana d'oro, un mezzo danese, una moneta di otton, un mezzo grossetto, mezzo soldo di rame, mezzo grossetto dei ragusei d'argento, mezzo baiocco, quarta di monetina d'argento, mezzo ducato, due scudi, mezza moneta di piombo e anche una moneta del Papa. Mantenerli? Sì, che metteva dentro assi. Sì. Una moneta Papa, mezzo baiocco, stampato sotto Clemente IX, mezzo ottavo di Ducato, mezza Lirassa e mezza Gazzetta. Guarda quanti schegli. Madonna che... santa. E era per mantenere, sì, dopo sì, non appunto. So, io dico cosa che faceva di sta roba, insomma. Cioè, perché se ti dico che comprava roba, insomma, vabbè. Dopo... E c'era un'altra curiosità che forse è meglio che non so se... E c'è un'altra curiosità, non desmenteremo anche dei sacerdoti che sulla morale dell'impegno cristiano noi che cascava tanto dentro, e cioè cascava nella rete del becà, e lui c'era pochi che in casa teneva una signora, e c'era una falsa governante che dopo aveva problemi, e qualche volta De Raro insomma interveniva e succedeva insomma quello che è. E una volta nata creatura faceva nascere fuori della zona e dopo gli aveva la scaricava a pietà, insomma, che a queste succedeva queste robe qua. Tristi casi, naturalmente. Tristi casi. Tristi casi, ti ha capito quello che succede. Dopo che c'era sta vita quotidiana de sto istituto, andava un fiantin degradandosi, diremmo, perché aveva tanti schei. Una cosa che succede, si era trovato in tristi condizioni, perché dopo che c'era le guerre, Venezia, Cofora, schei, l'Stato della Repubblica non che ne dava. E che c'era sempre questo contributo pubblico che non mancava mai, però non bastava. E che c'era bisogno che il governo intervenisse, perciò che aveva bisogno degno da fogo, qualche volta schei per i bisogni di fantuini, che ogni giorno cresceva del numero. Sempre la carità cristiana c'era forte e che c'era proprio la nobiltà che nei testamenti insomma trovava spesso lasciti per questi poveri fiori di Avietano. Il consenso del doge a Fra Pacino, tornami in Dio, è che aveva sempre continuato l'elemosina, però anche a sto Fra Pacino, non sai che anche se che c'era lasciti robi, sempre andava a carità. E c'era una certa nobildonna che aveva sei erede all'ospicio e famose di sette casette che prima godito che le aveva affittate, qua su un'altra notizia, se che le aveva dai de sopra pietà sta nobildonna. Generosa. Sì, un'altra nobildonna, una certa alta donna, che donava all'ospicio un po' di che dava terreno. Sì, sì, ma... perché c'era ricca e aveva campi fuori nei campagne, dopo che c'era, secondo un testimonio, il numero di ricoverati all'interno e quelli di assistiti all'esterno cresceva da far paura. Nel 1448 c'era 4300. Ma una quantità enorme. Sempre... Sì, sì, sì, e difatti che c'era sti lapide, come che dicevo, che... e contava tutte le sue robe, insomma. E dopo si muove anche ai suori di conventi, perché anche ora è già da possidente e conventi, monasteri. Ah, sì, perché... E che donava campi, terreni, cioè dopo la generosità si è ingrandito. Ma però sempre, sempre sotto pressione. Non sai che roba fosse stata, diremo, una generosità... Erano costretti a farlo. Erano costretti a farlo, ti ha capito. Dopo invece si è andato tutto finendo la storia, insomma. Dopo insomma, un fiantino a epoche nostre, si da segnare l'importanza della riforma del diritto della famiglia, che ha permesso la scomparsa quasi totale di questi esposti. In rari casi, infatti, veniva affidata a piccolissime coppie aspiranti, e difatti, fino a 70 anni fa, che c'era proprio su questo istituto, che i genitori che voleva adottare, che non poteva avere maternità e voleva adottare, che toccava andare a far domanda per l'adozione. Si era trasformata, insomma, e quella legge del 77, la situazione dell'istituto, se poi, insomma, radicalmente cambiata, nonostante la carenza di sempre di iniziative fino a ISAE. Così negli anni 70 del 2009, diciamo, l'asilo di Santa Maria della Pietà, inizialmente in congestione convenzionale con l'istituto del comune, è presto affiancato sessioni della scuola materna e della biblioteca del quartiere. Adesso che esiste, ha avuto anche un periodo che sta ospedale di maternità, che ora le donne andava a far nascere puteia, no? Sì, specialmente anche le ragazze madri. No, le ragazze madri che sempre stai, ma dopo andava proprio, già era un ospedale comunale. Ah, perché mi ricordo, sì, sì. Mi conosco tanta gente che era mia zia che faceva evatrice e serviva a Pietà. Sì, sì, faceva sì, una sì. Ciputeia, già era, diremo, dipendente appunto private e comune, anche accolito di Venezia. Sì, sì, sì. Sì, sì, adesso che sì, mi pare che faccia una bella mostra di tutte queste robe, questi libri, tutte queste... E dopo che sì, chi racconta tutti i fatti di Putei, come che stai abbandonai, cosa che ha trovato, insomma, è una storia gigantesca quella di questo discorso qua. Ad ogni modo, ma insomma... c'era tanto abbandono una volta, eh? Ma ti vedi però adesso... Adesso succede ancora, manco di prima, sì. Perché adesso le famiglie si erano fiantini ricomposto, ma quei che sono fiantini con la testa fuori al cervello, cosa si che combini? Colpa stesso, i droga, i massi, i butanesco asse. E a pensare che aveva messo, non so, Venezia, su altre città, che aveva messo la culla termica su certi posti. Sì, perché di modo che i bambini sì, non soffrissero. Sì, una culla termica, certo. Fa conto come una specie di roda, non sì, so, sì. Che aveva un'entrata, era tutta custodia di vero. Ma ti dico, anche a Roma, chi abbandonava sulla piazza appunto del mercato, sulla colonna del latte, se perché la gente che andava, che vedeva le apuare messe in camiseria, e che portava del latte. Sì. Mi non sapevo che esisteva la colonna del latte a Roma, in piazza del mercato. Neanche io era prima che insomma, ti vedi girandosi e rivoltandosi come che camminiamo... Ad ogni modo, questo istituto della Pietà che è nato, diremo, miserabile, e si è ingrandito dopo che si è stati restauri, dopo che c'era anche la Cesetta della Pietà, che c'era il conservatorio, il seminario, dove che dopo che pratica Vivaldi, e qui è un'altra storia, perché dopo che c'era i putei abbandonati, quelli che magari nessuno aveva torle, che diventando grande, e c'era che c'era e cose, come si chiama, e... Aspetta un attimo, Franca, sì. Che intanto che così andiamo ad un'altra canzone. Sì. Ecco, allora, adesso Gino Paolo ci canterà Quattro amici al bar. Eravamo quattro amici al bar, che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchier di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare. I più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchier di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Ed eccoci di nuovo in studio per la tranche finale con la nostra ospite, alla quale volevo chiedere appunto una cosa interessante del, mi veniva in mente della Pietà, le putte della Pietà, sì? E il prete rosso Vivaldi. Ecco, qui sì. Dovrebbe essere una storia molto accattivante per i minuti che ci restano, diciamo. Sì, ecco. Beh, mi magari dico qualcosetta così, mi ti dico solo una roba, che i concerti delle putte e Gera fa conto su Siemia in un solo anno che studiava, dopo che Gera è virtuosa che veniva scelta, no? Perciò si chiamava sia del coro che formava un insieme di orchestra e Gera è privilegiata e suonava strumenti principali e tante di queste concertiste, non avendo l'obbligo dei voti, veniva scelta come mujer da giovani che insomma come trattava bene, faceva vita da signora, ti capisco. Dopo che c'era Yu, che tante c'era diremo anonime del nome, e per riconoscerle veniva chiamare col nome del strumento che suonava. Ora che sei più famose c'era Lucetta da Viola, a Catarina dal cornetto, a Silva dal violino, Luciana dall'organo, e dal 1723 i concerti si stai di retribuì quel somma di 80 ducati all'anno. Perciò insomma, c'è qua una rappresentazione che c'è sul seminario dove andavo a suonare, insomma, ne sarà 50 sui palchi in alto, e tante volte c'era anche a coperte dai gratte perché la gente non doveva vederle. Addirittura. C'era ospiti di seminari e cantava e suonava, restando invisibili al pubblico, protette da una fitta grata. Secondo alcune testimonianze, erano di una fattezza angelica. Tante c'era brutte e storpie, e per mantenimento la Repubblica versava un contributo annuo di 100 lire. 100 lire, pensa un po'. Beh, ciò che a volte, dopo io praticamente c'era anche maestro al conservatorio, nel 1700 si è diventata la propria scuola di musica, al termine conservatorio che significava ospizio, e si restava vicino al seminario, all'ospedale e anche al Cesa, c'era tutte robe, tre istituzioni, tre realtà, tutte attaccate. Tutte così insomma. Il prete rosso. Il prete rosso, cioè, tanto. D'ogni modo, insomma, resta una brava persona. Ha scritto, sì, ha scritto tante belle cose, sì, musica sacra. È sacra, cioè, sì, che sì. Ne scriveva non so quanti su Nano. Perché pensi che Iuse sta battizzata su Accesa, dove che adesso che c'è il Museo Corer. Ah. a Venezia, San Marco di Musocrea, e con l'aria già era accesa di San Pietro Geminian, che era stata buttata solo da Napoleone, e si stava battezzata. Pensa un po', pensa un po'. Sì, sì, sì. Quindi è nel fine Settecento. E già con l'Ottocento era buttata solo Napoleone per farsi costruire una sede da baio che dopo non si neanche mai andata. Sì, sì, sì. Dissacrazione. Ma butta solo una chiesa della Gia del Sansovino addirittura. Sì, sì, sì. E Iuse sta proprio battezzata. Mm-hmm. Dopo che se il discorso mi qua era un bel... una bella fotografia della sacrestia di accesa, che sono ancora gli strumenti di Iul, cappello, cosa dell'incenso e appena de oca qui sono scritti, perché col diceva messe e ciò che ho chiamato tia che aveva l'asma bronchiale cronica è malattia segreta. Ma allora avevano delle malattie? No, aveva si sta confermando un'asma bronchiale cronica da natività, cioè Iul è nato così. Ah, proprio congenita? Sì, è nato. E difatti quando che scampava via dai messe, perché ogni tanto scampava via, andava a correre in sacrestia e aveva in mente la musica che suonava e anche se i suoi libri e i suoi partiti, i singoli in sacrestia di accesa. Pensa un po'. Quanta musica, perché ne ha fatto tantissima. Ne faceva dei concerti su un anno, robe incredibili, e li sfornava come il pan. Anche, organo, sì. Per... musica di Vivaldi ne abbiamo veramente tantissima. So praticamente Iuga varia anche imparata da suo papà, perché suo papà era già violinista nella Basilica, e ha avuto anche lezioni da altri autori. Erano veneziani di origine, sì, sì, proprio, sì, sono sì, loro. Sì, sì, sì. Più praticamente è nato a Venezia. E lo chiamavano il prete rosso perché era rosso? Perché era rossi. Sì. Sì, viene il cortile del Basso Ducale a Venezia, che c'è una lapide che ricorda suo papà. Era contador all'ufficio del Lazio e del Vin, suo papà. Ed era come sarebbe il nostro ragioniere? No, era all'ufficio, sì, del Lazio. Sì. Lazio il Vin, che aveva l'ordine di guardare gli arrivi e partenze, schei, e notava suo papà. E c'è stato bandito da Serenissima come reo del gravissimo intacco a cassa. Sì, sì. E nel stesso anno il giovane Vivaldi già era ordinato sacerdote e assegnato a una chiesa, ora scomparsa, che sarebbe qui a... che ha avuto su. Ma anche allora... anche allora. E viene in mente una roba che Venezia come dire docet, nel senso insegna ancora, sì. Voi tutti conoscete la storia del metodo Abreu, no? Di quel venezuelano che ha tirato fuori dalla strada praticamente tanti bambini che ecco, il metodo Abreu praticamente è un po' la questione di Vivaldi, ma di qualche secolo fa praticamente. Ecco, quindi per dire che anche lì Venezia è sempre la solita straordinaria. Del pastor, non stiamo di niente. Sì. Non stiamo di niente se dopo mi dice robe. No, ma veramente la storia dovrebbe insegnare, e anche è sempre uno strumento affascinante di conoscenza. Questo credo che non si possa contestare e si possa condividere al più. Ecco. Ha avuto il primato su tutto. Esattamente. Niente, questo potrebbe essere un qualche, come dire, guardare indietro potrebbe consentire di guardare avanti certe volte. Sì, sì, o sbaglio? Sì, non sì, so no, se no, no, no, è giusto, sì, sì. Ecco. Queste sono veramente storie da noi, diciamo, sì, storie sì, che partono da lontano. Cioè, le storie, più che storie, diremmo, folcloristiche, origine, le storie di storia. Perché mi adesso mi da dove che ho ricavato tutta questa roba che mi ha toccato a Dulla indietro, diremmo. Cioè, questa roba che viene dagli archivi di Stato. Certamente, è solito scrittore che scrive fantasia, che storia quasi. Certo. È proprio storia vera, insomma, va sì, bene. Sì, va bene. Allora non possiamo altro che ringraziarti. E vi ringrazio voi altri e ringrazio chi ha avuto pazienza di ascoltarmi. No, è stata una bella esposizione. È sempre un piacere. Va bene, vi ringrazio tutti e... alla prossima occasione. Ciao Fiori, grazie. Ciao. Allora ringraziamo la Franca Turchetto, che è sempre molto brava nella sua esposizione, gamba, disponibile, esatto. E noi ci diamo appuntamento, a Dio piacendo, alla prossima volta. Alla prossima volta. Come sempre vi dico ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.